e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chi è? Corsetti remo, artrose colonna vertebrale. Sì. Dove hai fatto le radio? Radiologo Filopanti, mi ci ha mandato lei. E certo, quella che avevi non si vedeva niente. Vedi quarta e quinta vertebra, vedi com'è chiara? 10.000 lire, è chiara, sì. Sì, piegano un po'. Oh! Traumatologico, gli fanno il busto. Ma col busto non posso più lavorare. Che lavoro fai? Sono impiegata ai posti, ufficio di. E beh, timbri in piedi. Timbri in piedi, 10.000 lire per le lastre, bei tempi quelli. E a proposito di prestazioni mediche che si fanno pagare, sono ben 208 le prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale che potrebbero essere tagliate per ridurre la spesa pubblica. Lo ha stabilito, lo ha deciso il ministro Beatrice Lorenzin. La lista è stata presentata proprio negli ultimi giorni ai sindacati dei medici e stamattina di questa notizia parlano tutti i giornali, per la verità lo fanno già da ieri, perché a quanto pare proprio la categoria dei medici sarebbe pronta a contestare in maniera abbastanza drastica questa prescrizione, potremmo chiamarla così, del ministro Lorenzin. Tra l'altro i medici potranno anche essere sanzionati nel caso di abuso nelle prescrizioni di test allergici, genetici, risonanze magnetiche, TAC ed esami di laboratorio. Allora, proprio di esami parliamo oggi nella prima parte di Cuore e Denari, commenteremo questa notizia, ma soprattutto parleremo di quegli esami dei quali è bene, che è bene fare, quando è bene farli e con che frequenza. 800 24 00 24, cominciate subito a prenotare le vostre domande, raccontateci qual è stata l'ultima volta che siete andati a fare le analisi del sangue, che approccio avete con questo tipo di esami, che sono un po', lo sapete, la cartina di tornasole del nostro stato di salute. Li fate con regolarità oppure aspettate sempre che sia il medico a prescriverveli? Li leggete da soli o aspettate che lo faccia il vostro medico curante? Raccontatecelo naturalmente, anche se volete, al 349 238 6666. Oggi è giovedì, dopo il GR delle 11 daremo spazio alla nostra rubrica del giovedì, Investire Informati, come sempre un ospite autorevole con noi per commentare l'attualità finanziaria e capire come questa influenza le scelte di noi piccoli risparmiatori. Dallo scandalo Volkswagen, del quale si continua a parlare oggi con grande spazio su tutti i giornali, ai tassi di interesse con le scelte della Banca Centrale Americana, ma parleremo anche delle politiche monetarie degli altri paesi e poi tutte le notizie che continuano ad arrivare dalla Cina e il nervosismo che in questi giorni naturalmente condiziona un po' l'andamento di tutti i mercati finanziari. Vi coinvolgeremo come sempre con il nostro domandone, ma 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione se volete con noi tornare a sedervi sui banchi della nostra scuola di risparmio. Le sue analisi per favore. Grazie, molto gentile. Bellissime, stupende, azotemia magnifica, glicemia eccezionale, colesterolo delicatissimo, trigliceridi fantastici, urine meravigliose. Complimenti. Grazie. Prego. Esami vietato scialare. Vanno prescritti solo quelli necessari. Il monito arriva dal Ministero della Salute, che in questi giorni ha pubblicato i dati che vanno proprio a fotografare un fenomeno che a quanto pare necessita di essere controllato e addirittura ridimensionato. Il 61% dei medici ha dichiarato infatti di avere prescritto più esami ai propri pazienti di quelli necessari. E allora a questo punto vale la pena chiedersi quali sono gli esami davvero necessari, in base a quali criteri il medico decide di prescriverli. Cosa cambierà con questa decisione del ministro Lorenzin? Naturalmente non potevamo che farci aiutare dal nostro medico di famiglia, che salutiamo, dottor Carlo Gargiulo. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, Deborah, buongiorno ai nostri ascoltatori. 800, sì. Voleva subito partire. È preoccupato, dottor Gargiulo. Ho visto sì, che. Per quale motivo? Ce lo spiega subito. Insomma, qual è? Visto che qualche giornale questa mattina titola "Tagli agli esami, la rivolta dei medici", qual è il motivo per cui esprimete questo vostro pensiero un po' critico su questa decisione? Perché dietro al concetto di appropriatezza purtroppo si nasconde questo concetto di economia, di voler risparmiare a tutti i costi. Allora è difficile poter conciliare quelle che sono le esigenze della professione medica e le necessità per poter arrivare ad una diagnosi con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale. Non mi si può venire a dire che io devo fare solo quegli esami perché sono appropriati. Mi si venga a dire che io devo fare quegli esami perché solo quelli mi vengono rimborsati. Allora io imposto un discorso diverso col mio paziente, come faccio con i farmaci di fascia C. Questo esame ti serve, devi farlo, mi dispiace, lo Stato non te lo può passare, mettiamo mano al portafoglio. Ma è un discorso serio, sereno, che io mi sento di poter fare onestamente con i miei pazienti. Non mi si venga a raccontare favole dal punto di vista dell'appropriatezza o non appropriatezza. Ho visto che ci sono i test genetici. 35 anni di professione avrò prescritto 20 test genetici. Non raccontiamo le favole ai cittadini. È un po' appunto come se il ministro vi chiedesse di agire con quel buon senso che invece già anima le vostre tra virgolette consulenze nei vostri pazienti, no, dottor Gargiù? Tra l'altro 208 prestazioni appunto sono anche un bel po'. Sì, sono anche un bel po'. Io mi rendo conto che in certe situazioni, come lei diceva, il 61% dei medici dichiara di aver prescritto forse più del necessario. Può essere, può accadere, però non dimentichiamoci che un esame in meno prescritto, che poi magari porta a non formulare una diagnosi corretta, significa giocare con la salute ma soprattutto con la vita del mio paziente, e questo non lo trovo giusto. Io parto dal concetto che è meglio fare un esame in più e salvare una vita piuttosto che fare un esame in meno e rischiare di perdere il mio paziente. Allora, la sua posizione, dottor Gargiulo, sulla questione complessiva l'abbiamo capita completamente. Le devo però assegnare anche l'ingrato compito proprio di aiutarci a decifrare questa decisione del Ministero della Salute, perché nella blacklist del Ministero sono rientrate TAC, risonanze, ce lo diceva lei poco fa, test genetici, prove antiallergiche ed esami vari. Vorrei avere un commento su questa lista per quanto riguarda appunto proprio le visite definite inappropriate. Quali sono, oltre ai test genetici, quelle che vengono reputate tali dal Ministero della Sanità, della Salute? Se parliamo di TAC, è vero che c'è un eccesso di ricorso alla diagnostica per immagini cosiddetta, cioè basta poco per poter fare una TAC, basta ricorrere a entrare in un pronto soccorso avendo sbattuto la testa. Una volta si faceva un esame un po' più accurato, un po' più attento, oggi si ricorre di più alla TAC. Qui subentra e diciamo si mette in mezzo anche una certa medicina difensiva che nasce proprio dalla incapacità dalla necessità, di doversi difendere da aggressioni che spesso vengono dalle organizzazioni che tutelano i pazienti, che più che tutelare tendono sempre un po' al contenzioso, e quello è un altro grosso rischio che andrebbe in qualche modo codificato. Prescrizioni inutili, io onestamente nella lista non vedo cose inutili, perché se io chiedo i test allergici al mio paziente, è vero che oggi non si fanno tanto più le desensibilizzanti, cioè i vecchi vaccini per le allergie, però almeno io lo posso mettere sull'allerta che se ha un gatto in casa magari è il caso di allontanare il gatto perché il pelo del gatto gli dà allergia, ma se io non so che il pelo del gatto gli dà allergia, come faccio a capire tutto questo? Quindi si deve cercare di trovare sempre una strada giusta fra la clinica, la visita, l'esame obiettivo, l'anamnesi e tutto quello che la medicina dei nostri maestri ci ha insegnato e tutto quello che il moderno ci porta dentro. Cioè, non dimentichiamoci che esami come TAC, risonanza magnetica, PET sono diventati esami di importanza fondamentale. Io quello che proporrei, ma io sono soltanto un umile medico di famiglia, mi permetto di proporre il fatto che ogni cittadino abbia una sua scheda nella quale afferiscono questi esami. Oggi la telematica ce lo consente. Quando io chiedo un TAC a distanza di un mese, solo perché chi lo rivisita non è convinto di quella TAC fatta in quel posto, ma la vuole fatta nel posto dove dice lui, abbiamo sentito Alberto Sordi poco fa, ecco, lì interverrei in maniera un po' più pesante. Devo dire, dottor Gargiulo ha molti ascoltatori dalla sua parte, ci stanno scrivendo in tantissimi al 349-238-6666 perché riconoscono che il medico non è un indovino e se non si avvale degli esami anche per sapere che cos'è il paziente, come può fare, no? Giustamente, pur conoscendolo, magari ha con lui un rapporto di anni, certamente ha tutta la sua storia clinica sotto gli occhi, la conoscenza personale, però è chiaro che anche voi poi avete bisogno degli strumenti per fare le vostre diagnosi e per dare le vostre, assegnare le vostre cure. In tutto questo, dottor Gargiulo, chiaramente siete sempre un po' in conflitto fra quello che chiedono i pazienti e poi quanto definisce il Ministero della Salute, no? Perché abbiamo di fronte a noi anche persone che ci sono quelli che non farebbero altro che fare esami e controlli e quelli che non si controllano neppure banalmente la pressione una volta l'anno, no? C'è sempre una via di mezzo in tutto questo, dottor Gargiulo, certo. Mi pare un commento di buon senso forse quasi inutile, ma in ogni caso noi rifacciamolo per chi invece su questi temi qua nel modo giusto non ci mette la testa nella maniera corretta. Sicuramente, ma il ragionamento che facciamo, io è chiaro che non esiste il bianco e il nero, ma c'è un'infinita serie di sfumature che contraddistinguono le varie situazioni. Sicuramente, e io mi metto anche io nel numero dei medici che hanno prescritto magari un esame in più, una lastra in più, è vero, prestiamo più attenzione, io sono d'accordo. Io parto da un presupposto però, perché la categoria dei medici che oggi lavora è una categoria alla quale non è stato insegnato minimamente il discorso dello stare attento alla spesa, di dare un occhio alla spesa. Noi siamo usciti da un'università che ci raccontava che la salute non ha prezzo e quindi bisognava andare incontro alle istanze di salute al massimo. Poi sono venuti fuori gli esami costosi, poi sono venute fuori le TAC, le risonanze magnetiche. Oggi noi sappiamo che esiste un costo e non è facile aggiornarsi da questo punto di vista o cambiare la propria mentalità. Rimane poi il fatto, ad esempio, che ci chiedono di fare prevenzione. Ci dicono: noi oggi abbiamo in Italia una popolazione di diabetici che è sommersa e che noi non conosciamo e che poi ha un costo per il Servizio Sanitario Nazionale quando si complica che è enorme, ma io per identificare questa popolazione dovrò pur fargli delle glicemie cadenzate nell'arco dell'anno o degli anni. Se non mi date la possibilità di usare gli strumenti, io non vi posso restituire salute. Mi dovete dire: questi sono gli strumenti, con questi strumenti tu ci restituisci un X di salute. E allora facciamo un bilancio di quello che io vi restituisco e di quello che io vi sono costato, che il cittadino vi è costato. Dopodiché possiamo ragionare in questi termini. Gli sprechi non mi sembrano questi, onestamente. Allora, adesso daremo la parola ai nostri ascoltatori. Sono pronti ad intervenire Angelo da Milano, Rossana da Firenze e molti altri all'800 24 00 24. Staremo col dottor Gargiulo ancora una decina di minuti di tempo prima di andare poi al giornale radio. Poi avremo Investire Informati. Abbiamo tantissime cose da fare, a cominciare dalla dare la linea alla regia per il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e Denari. Ci vuole calma e sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo e noi proprio, tra l'altro, anche di sangue, anche se adesso abbiamo solamente sfiorato l'argomento, torniamo a parlare perché stiamo parlando di anche esami del sangue e parliamo praticamente di tutti quegli esami che potremmo definire di routine per avere un po' un quadro del nostro stato di salute, e abbiamo legato inevitabilmente questo argomento a questa stretta su almeno 208 prescrizioni, prestazioni appunto, che i medici appunto prescrivono, una stretta che è stata decisa dal Ministero della Salute per risparmiare complessivamente sulla spesa sanitaria, perché poi anche questo è un tema che va riconosciuto, è proprio quella spesa che peraltro sbilancia completamente anche il bilancio pubblico delle regioni. Insomma, ci sono tante questioni che andrebbero affrontate commentando questa notizia. Noi ci limitiamo al commento dei medici di base, che non sono molto contenti di questa decisione, perché peraltro c'è anche tutto l'aspetto legato alla prevenzione che stanno sollevando anche molti ascoltatori, che riconoscono effettivamente l'importanza anche magari di un esame in più per così verificare anche magari delle patologie che altrimenti non si sarebbero riscontrate. Ce lo raccontano molti ascoltatori. Leggo solo quello di Corinna di Messaggio, che ci racconta: mi hanno diagnosticato una degenerazione nodulo tiroidea con 4 anni di ritardo per mancanza di esami, mi stavo curando per tutt'altro. Insomma, ma ve ne potrei leggere a decine. Sentirei, per commentare questi casi con il dottor Gargiulo, Angelo da Milano e Rossana da Firenze. Angelo, veloce, perché già il tempo ci sta sfuggendo di mano. Benvenuto. Angelo, dov'è? Pronto? Sì, eccoci. Ecco, no, diciamo che sul parlato prima con la sua collega, il problema principale credo che sia proprio il discorso della prevenzione, se no se ci vogliono rottamare tutti va bene, insomma, ecco, facciano come credono. Poi mi sembra inappropriato, l'unica cosa inappropriata credo che sia questa uscita del ministro. Nessuno si diverte ad andare a fare degli esami medici, perché se va con la con il servizio sanitario impiega qualche ora prima di trovare un posto libero, poi deve andare, aspettare, dove dovrebbe essere secondo la nostra ministra, che mi ha suscitato qualche perplessità sul discorso della competenza che possa avere nel suo capo. Grazie. Forse bisogna tagliare le spese ai parlamentari più che mandare all'altro. Grazie Angelo, grazie molto. Rossana da Firenze, benvenuta. Anche a voi, che vi stimo molto. Grazie. Niente, io posso raccontare che ho una cisti all'interno della narice, però prima di capire che c'era questa, cioè io la percepivo al tatto, i medici la percepivano a tatto, però non se ne capiva la natura. Ho dovuto fare radiografia, niente. Tac, niente, fino a che non ho fatto la risonanza magnetica, da cui è emerso questa cista radicolare, più altri due grossi problemini all'interno della testa. Per fare tutto questo ho dovuto pagare un alto medico prima di questo, e ora dovrò andare anche da un neurologo alto per capire che cosa diciamo fare. Che ecco, però gli esami che le sono stati prescritti, Rossana, volevano indagare su un problema nel quale lei non veniva a capo, per cui dottor Gargiulo, erano tutte prescrizioni tutt'altro che inappropriate, no? Probabilmente nel mirino del ministro, chiaramente, che è in buona fede su questo, ci sono prescrizioni di altro genere. Sì, no, ma anche ecco, questo manda fuori queste notizie e sta creando ulteriore panico, perché io da stamattina che sono entrato nel mio studio ho già avuto due o tre persone che sono venute a dirmi: dottore, facciamo subito le analisi, perché peraltro tra un po' ce le levano. Vabbè, adesso non è che il ministro può intervenire in questo modo, ecco. Cioè, no, ma come si concretizza questo intervento del ministro? Allora, dottor Gargiulo, ce lo spieghi, nel senso che lei farà una serie di prescrizioni e poi le verranno a chiedere ragione delle prescrizioni che ha fatto? Potrebbe essere anche questo, perché se sono prescrizioni, come vengono definite, inappropriate, potrebbero venirmi a chiedere anche di rimborsare la prescrizione che ho fatto in maniera inappropriata e quindi decurtarmi il mio stipendio. Addirittura, ma nell'estrema razio, ma chi definirà poi che è inappropriata la scelta che ha fatto lei nei confronti di un paziente che conosce magari da 10 anni? Questa è una bellissima domanda a cui io non so dare una risposta. Infatti, questo è il punto nodale. Quando tu mi dici appropriato o non appropriato, al di là del fatto che noi seguiamo delle linee guida e seguiamo fondamentalmente quello che abbiamo imparato in tanti anni di università, è chiaro che se tu, qualcuno stabilisce quello che è appropriato o non è appropriato. Leggevo che sembra che il colesterolo possa essere fatto ogni 5 anni, sì, in assenza di familiarità o di altri fattori di rischio, non penso che sia sufficiente per riuscire a identificare il mio paziente. Capisco poi che dopo una certa età, ad esempio, cambi. Ecco, anche qua bisognerebbe poi fare per fasce di età. Esistono fasce di età che sono più a rischio, esistono fasce di età che sono meno a rischio, e quindi ovviamente riuscire a fare un discorso con il paziente. Ma io già impiego una buona parte del mio tempo a spiegare perché faccio una cosa o perché non la faccio fare. Questo anche è importante, però anche qua il tempo è quello che è. Insomma, secondo me bisogna trovare una quadratura leggermente diversa, certo, essere molto più chiari sul discorso economico e molto più chiari sul discorso scientifico. E magari, insomma, se non so poi se sia stato fatto o meno, avrebbe forse dovuto consultarvi un po' di più magari il ministro su questa decisione. Non abbiamo tempo di commentare anche questo risvolto. Dottor Gargiulo, grazie per essere stato con noi. Abbiamo la sensazione che il commento su questo argomento non lo abbiamo esaurito qua, e le prometto che ci torneremo al più presto, quando ritornerà anche Nicoletta Carbone. Devo dare subito la linea giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta. Oggi riprendiamo con Investire Informati i nostri giovedì dedicati alle parole del risparmio, agli strumenti di investimento, ma soprattutto ai temi dell'attualità finanziaria, alle dinamiche dei mercati, alle notizie che movimentano le sedute di borsa. Questi temi su cui ci confrontiamo per cercare, per quanto possibile, di orientare i risparmiatori, che in ogni caso lo ribadiamo sempre con grande forza, devono fare le loro scelte di risparmio e di investimento

torniamo con Cuore e Denari con Nicoletta Carbone. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata.